su altri radio, vuoi anche segnale com'è il segnale? Sai che guardo! Guarda allora, vedi un po' come sto arrivando, ok, ripeti. Trova il segnale, appena ti supero poca roba, ma ti ripeto, come ricezione l'antenna, la mia, già te l'ho detto, come è messa male, capito? Dunque, già esci bene però come radio, E ok, è benissimo, bene, purtroppo, diciamo, va bene così allora, dai. Roger, va bene, è vero, cosa, Gian Maria non c'è oggi, non ho sentito, non è entrato. Può essere che sia sceso in campagna, oppure se ne sia sceso a fare sul giro alla festa di Porto Torres, capito? Capo, non l'ho sentito neanche io, ieri sì, oggi no, e io lì come ti arrivo? Qua mi arrivano segnali di nove tu, mi arrivano segnali di nove, cappa, una radio di 4 5, dai, già stai arrivando bene anche tu, già, mi stai arrivando bene, ok. Nonostante, diciamo, con l'antenna sia messa male, come ce l'hai, sta funzionando bene, dai, comunque sistematela, comunque l'antenna c'è 3 anni, c'è 15 anni, è già, diciamo, c'è già da un bel pezzo, vabbè, una lustrata, gli metto il radiale e gli apposto, già ce l'ho un'altra, una Mantova 5 turbo, ce l'ho piazzata in campagna, sto pensando di portarmi su quella e mi piazzo quella, quella lì è nuova lo stesso, quella lì ce li ha tutti i radiali, ma il fatto è che i radiali sono in resina, qui ci sono talmente tante cornacchie che se lo mi spezza anche quelle. Tu prendi il fucile quando vedi qualcuno lì girondolando vicino all'antenna, dai, tira una fucilata e l'ammazzi, vuol dire non ci torna più. Ce ne sono talmente tante, mi fra un po' sento, arrivano tutte, perché dove sono io c'è un grattacielo e la sera si ricanano tutti sul tetto del grattacielo, ma devi vedere quante ce ne sono, arrivano a gruppi. Ok, quanto fa c'è la riunione delle cornacchie, ok, ho qua negativo cornacchie, nulla, niente, nulla cornacchie, una volta c'era una volata di piccioni, ma pare che siano spariti, non lo so, vabbè, comunque, è così, se c'è qualche carabina, come arrivano, una bella, diciamo, impallinata e... ad ammazzarle già spariscono, già diminuiscono, così diciamo te ne liberi. A parte le cornacchie qua ci sono colombi che non riesci neanche a contarle di quanti ce ne sono, nonostante che ogni tanto ne trovi qualcuno morto in strada, è pieno di colombi lo stesso. Ok, allora sei in buona compagnia, tra cornacchi e colombi, diciamo, c'hai compagnia, ok, tutto lì. Bene, Roger. A parte le ruggini che c'hanno tutti i nidi sotto il cornicione, quelli già mi piacciono, va. Poi quelli già vengono una volta all'anno a rompere le scatole, ma i colombi e le cornacchie ci sono tutto l'anno. La rondine è così, la rondine diciamo è un po' dall'anno, quindi non è per una sera di fatico, dai, quelli che diciamo sono da eliminare sono i colombi, le cornacchie e piccioni e via dicendo, e quelli diciamo, visto che hanno fatto danno anche la tenda, diciamo, fanno casino da tutte le parti, ok, quindi poi diciamo danno fastidio, diciamo, tutto lì. ma allora sai quanto ne trovi giù la mattina quando esco, molti. Sembra che ce ne sono sempre di più questi columbi, belli grassottelli. Bene a mangiare, quelli di campagna che c'erano, adesso non ce ne sono più, quelli già li prendevo e belli grassottilli, quando li prendevo che li pulivo in pancia, ci avevano la pancia piena di Gran Turco o del periodo di favette e di fave e i columbi, quelli già me li mangiavo. Li mettevo nell'acqua calda, li spellavo, poi li aprivo, sembravano polletti hamburghesi. Così la gente se ne va un po' a fastidio, poi meno male oggi è uscito questo sole e adesso il vento ha diminuito un po' e dunque la gente ne approfitta un po' a uscire, dato che dopo domani torna a piovere. Vabbè là, Uranio, io ti saluto che devo fare cosa, ce la risentiamo alla prossima, ciao, salutoni al QRA, ciao. Mollato, ma speriamo di no, sicuramente in giro per i fatti suoi. Comunque 9-5, Santiago 7-9, Radio 5 oscillante. Io in questo momento io sono collegato, ho un pochettino più di vitamine. Come ti sono arrivato dalle tue parti? Con strumento digitale non è che sia, diciamo, esercizio, come se andiamo strumento qua sia a fondo scala, ok. Ma sai com'è, sono strumenti, diciamo, digitali. LED, quindi non sono mai precisi, dai, sono puliti, scappa. Bene, bene, comunque direi che sta arrivando bene. Sta arrivando 9-10. C'è un sacco di propaganda, stavo provando su canale 27 e sul 7 sono gli spagnoli, però non sono riuscito a fare un collegamento, bisogna aspettare un altro po' che sono le tramonti. Vedete un pochettino più di propagazione, ecco. Meno male questi giorni ce n'è un po' e dunque proviamo a divertirci, dai. Okay. Bene, bene, tutto lì, dai, comunque io lo stavo anche chiedendo qua, è stato aggiungendomi a chiudere e a spegnere tutto come questo posto, dai. Bene, bene, carissimo, ci sentiamo la prossima, dai, perché è lungo qua che siamo posto da qua e non sai così in zona rossa, ok. Va bene, sentiamo la prossima, dai, salutoni e grazie al controllo, ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao, buona sera, salutoni cordiali da parte mia e ci sentiamo la prossima, ok, ciao ciao. ciao. Via, ci sentiamo alle prossime, allora, grazie del controllo, dai. Alle migliori, buon proseguimento di serata, io nel frattempo mi faccio un giro per riesco a fare qualche collegamento, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao, grazie. Ciao, ciao, niente, ciao, ciao.